Siamo con Mario Sesti per parlare della rassegna Tre donne, un altro cinema iraniano al Maxxi a Roma dal 23 al 25 giugno. Mario, ben trovato. Come state? Bene, bene. Mi incuriosiva questa rassegna, tre filmografie al femminile, dall'Iran, ce ne parli un po'? Innanzitutto devo dirvi che diciamo, il Deus ex machina, o il genius loci, o il vero curatore, Italo Spinelli, che storicamente è la persona che con Asiatica Filmediale ha da sempre, diciamo così, rappresentato un fronte di particolare attenzione, esplorazione e anche passione per il cinema asiatico. Quindi insieme a lui abbiamo messo in campo l'idea di fare il ritratto di queste tre registe che hanno tutte una filmografia molto personale e che naturalmente in un contesto culturale molto particolare come quello iraniano rappresentano un modo di come dire, usare il linguaggio del cinema per raccontare storie particolari con un punto di vista particolare. Faccio proprio di nomi che sono Rakhshan Banietmad, Ida Banandeh e Narges Abiar. La prima soprattutto, Banietmad, è quella che ha un po' rotto il fronte, perché è quella che prima delle altre ha imbracciato la macchina da presa per raccontare tra l'altro un Iran working class, grande realismo, con toni che a volte somigliano un po' al neorealismo italiano. Insomma, si tratta di un cinema veramente che ci fa vedere una parte dell'iceberg che non conosce nessuno, anzi sicuramente anche per noi che facciamo i critici cinematografici, si tratta di un tipo di cinema che anche, voglio dire, a Cannes o in altre rassegne è difficile trovare, internazionali. Si tratta poi naturalmente di film, innanzitutto appunto, tutto questo si svolge al Maxxi, a partire per l'appunto dal 23 giugno alle ore 18, e c'è un incontro con queste tre registe. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, perché non solo è difficile o impossibile incontrare i loro film, ma l'opportunità di avere la possibilità di anche avere un colloquio, una conversazione, incontrare, sentirle parlare, credo che si tratti di una chance culturale, non solo cinese, molto importante. C'è prima un incontro e poi tutti che saranno proiettati vedranno un'introduzione, un Q&A, una domanda e risposte con gli autori e le autrici in sala. Si parte diciamo con Narges, gli do proprio le informazioni diciamo proprio di partenza per l'appunto di questa regista di cui ti dicevo, Rakhshan Banietmad, che è una storia anche veramente particolare, la storia di un piccolo criminale che sembra un po' appunto come nei film degli anni 50, anni del neorealismo, che entra nelle case, fa dei furti, e che ha un rapporto in realtà con una donna molto più anziana di lui, si innamora di una più giovane, quella più anziana in qualche maniera fa buon viso a cattiva sorte e rassicura addirittura la famiglia di questa giovane, invece una giovane onesta, sulle buone intenzioni. In realtà lui continuerà la sua attività criminale, quindi metterà un po' nei guai tutti quanti, con un colpaccio a un certo punto nella casa di un ricco possidente iraniano, che finirà abbastanza, se non voglio svelare un finale, perché è anche un crime movie. Sì. Insomma, capisci anche tu da quello che sto dicendo che si tratta di, cioè, c'è anche un film di genere, ecco, girato con uno sguardo, diciamo, femminile, racconta la storia. Questo è un film che ha rotto un tabù, l'idea di poter raccontare una storia in un contesto sociale così particolare tra una donna molto anziana, insomma, una donna anziana e una più giovane, significava effettivamente iniziare a percorrere un sentiero in un'area mai battuta. Ecco, quindi è anche un film che ha veramente dato una spallata consistente a degli pregiudizi, a degli interdetti di una cultura millenaria che però ha un'intransigenza molto particolare, dovuta anche al dominio naturalmente della sua metafisica religiosa, e il fatto che questo sia accaduto grazie al coraggio, alla forza, all'intelligenza e al talento di una donna, credo che costi un calore e un colore particolare. Per quanto riguarda le proiezioni, ricordiamo anche che sono spalmate in tre giornate, il 23 due proiezioni, il 24 tre a partire dalle ore 17 e il 25 le ultime due dalle 18:30. Esattamente, quindi si tratta tratta, insomma, di una piccola buffata iraniana. L'Iran, per chi ama il cinema, non è una cinematografia qualsiasi. Basti pensare che uno dei film a Cannes di quest'anno è un film iraniano, cioè di Panahi, attinge a una cultura ultramillenaria delle immagini e delle parole. Ricordiamo che ovviamente la scrittura, la cultura è nata da quelle parti tanto tempo fa, ma soprattutto hanno un loro modo veramente particolare. Naturalmente ci sono film di genere, film che raccontano l'intimità femminile in una maniera che chiama, per esempio, i film di Faraday, conosce bene, l'idea che poi ci sia anche un riserbo particolare, no? Sui sentimenti, sui traumi che i sentimenti del passato celano, sui rapporti tra le persone, il rapporto con la famiglia, che noi conosciamo bene perché dal punto di vista culturale non siamo certo secondi, l'idea che la famiglia è un luogo di compressione, di conflitto, ma anche di grande intensità di sentimenti. Questa è una cosa molto presente in molti di questi film, e credo che, insomma, qualsiasi spettatore, no, italiano barra romano, sappia riconoscere anche delle frequenze, delle intensità e anche, come dire, dei conflitti che ci appartengono nel passaggio dall'adolescenza al diventare adulti, anche se vestiti, è il caso di dire, in una cultura, in un contesto così, così diversi dai nostri. Bene. Ricordiamo allora l'appuntamento con la rassegna Tre Donne, un altro cinema iraniano, dal 23 al 25 giugno al Maxxi, con l'incontro anche con le tre autrici. Tre autrici, ripeto i nomi, sì. Rakshan Bani Ekemad, Narghesa Biar e Ida Panandé, che corrispondono anche un po' a un paio di generazioni diverse di questo ingresso femminile della grande... Nel grande passaggio, nel grande arco, nel grande arazzo del cinema iraniano. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Mario Sesti. Mario, un abbraccio e alla prossima. A te, a presto, a tutti voi, grazie ancora.